Dodicesima traccia. È giusto, Mrs. Weston. Giudicate voi. Non ho io il diritto di lamentarmi. Son sicuro del vostro cortese sostegno e aiuto. Emma vide la sorpresa di Mrs. Weston e sentì che doveva essere grande a una preghiera che, nelle parole e nel modo, arrogava a lui il diritto di primario interesse per lei. E quanto a se stessa, era troppo irritata e offesa per avere il potere di dire direttamente qualcosa in proposito. Poté solo dargli uno sguardo, ma era uno sguardo tale che essa pensava che dovesse farlo rinsavire. Quindi lasciò il sofà e andò a prender posto presso la sorella, a cui dette tutta la sua attenzione. Non ebbe tempo di vedere come Mr. Elton pigliasse il rimprovero, tanto rapidamente sopravvenne un altro tema. Poiché in quel punto rientrò nella camera Mr. John Knightley dall'aver esaminato il tempo e si rivolse a tutti informandoli che il suolo era coperto di neve, che ancora nevicava forte con un ventaccio di tormenta, concludendo con queste parole a Mr. Woodhouse: «Questo mi è minaccia di essere un esordio piuttosto vivace dei vostri impegni di quest'inverno, caro signore. Una nuova esperienza per il vostro cocchiere e i vostri cavalli farsi strada in una tormenta di neve». Il povero Mr. Woodhouse era muto dalla costernazione, ma ciascuno degli altri aveva qualcosa da dire. Ciascuno rimase sorpreso o non sorpreso ed ebbe da rivolgere qualche domanda o da porgere qualche conforto. Mrs. Weston e Emma si misero d'impegno a rianimarlo e a distogliere la sua attenzione dal genero, che continuava a trionfare senza molta pietà. «Ho ammirato molto la vostra risoluzione», diceva, «nell'arrischiarvi fuori con un tempo simile, perché certo vedevate che presto sarebbe caduta la neve. Ognuno deve essersi accorto che era tempo da neve. Ho ammirato il vostro coraggio e mi immagino che arriveremo a casa senza incidenti. Un'altra ora o due di neve difficilmente potrà rendere la strada impraticabile. E abbiamo due carrozze. Se una si ribalta nella parte scoperta del pascolo comunale, ci sarà l'altra pronta. Immagino che saremo tutti sani e salvi a Harfield prima di mezzanotte». Mr. Weston, con un trionfo d'altra natura, confessava che lui sapeva da qualche tempo che nevicava, ma non aveva detto nulla perché Mr. Woodhouse non si mettesse in agitazione e si servisse di quella scusa per andarsene via presto. Che poi fosse caduta o stesse per cadere neve in quantità tale da ostacolare il loro ritorno, codesto era solo uno scherzo. Egli temeva che non avrebbero trovato alcuna difficoltà. Si augurava che la strada potesse essere impraticabile per poterli trattenere tutti a Randalls, e con la miglior buona volontà era sicuro che si sarebbe potuto dare alloggio a tutti, e chiedeva alla moglie se non era così che, con qualche ripiego, si poteva trovare posto per tutti, cosa che essa non avrebbe saputo come fare, conoscendo che nella casa non c'erano più di due stanze libere. «Che sa da fare, cara Emma, che sa da fare?» fu la prima esclamazione di Mr. Woodhouse. E tutto quel che egli seppe dire per qualche tempo. Si rivolgeva a lei per aver conforto, e le sue assicurazioni che non c'era pericolo, il suo fargli presente l'eccellenza dei cavalli di James, e che avevano tanti amici intorno, gli ridettero un po' di coraggio. Lo sgomento della sua figlia maggiore era pari al suo. L'orrore di rimanere bloccata a Randalls mentre i bambini erano arti, le occupava la fantasia, e immaginandosi che la strada fosse ancora appena praticabile per gente azzardosa, ma in uno stato da non ammettere alcun indugio, sollecitava che si decidesse che il padre ed Emma rimanessero a Randalls, mentre lei e il marito sarebbero partiti all'istante sfidando tutta la possibile accumulazione di neve portata dal vento che avrebbe potuto ostacolarli. «Faresti bene a ordinare subito le carrozze, amor mio», disse lei. «Immagino che riusciremo a passare se partiamo subito. E se ci troviamo in serie difficoltà, io posso scendere e andare a piedi. Io non ho affatto paura. Non mi importerebbe di fare a piedi metà del cammino. Potrei cambiarmi le scarpe, sai, appena giunta a casa. Non è codesto il genere di cose che mi fa infreddare. Davvero, rispose lui. Allora, mia cara Isabella, è il più straordinario il genere di cose che ci sia, perché di solito basta un nulla per darti il raffreddore. Andare a piedi a casa. Hai proprio le scarpe adatte per andare a casa a piedi, stai pur sicura. Non sarà uno scherzo neanche per i cavalli. Isabella si volse a Mrs. Weston perché approvasse il suo progetto. Mrs. Weston non poteva non approvare. Isabella allora andò da Emma. Ma Emma non sapeva rinunziare così interamente alla speranza di riuscire tutti a partire. E stavano ancora discutendo questo punto quando Mr. Knightley, che aveva lasciato la stanza immediatamente dopo che il fratello aveva dato notizie della neve, rientrò e disse che era uscito di casa per esaminare e poteva assicurare che non c'era la minima difficoltà per ritorno a casa, quando volessero, o subito, o dopo un'ora. Si era spinto oltre al viale curvo delle carrozze, per un tratto lungo la strada di Ivory. In nessun punto la neve era più alta di mezzo pollice e in parecchi posti non ce n'era neanche tanto da imbiancare il terreno. Ora cadevano ben rari fiocchi, ma le nubi s'aprivano e tutto lasciava credere che presto avrebbe cessato di nevicare. Aveva visto i cocchieri e entrambi erano d'accordo con lui che non c'era nulla da temere. A Isabella tali notizie recarono un gran sollievo e, poco men gradite, giunse a Emma per via del padre, che immediatamente si calmò tanto, a codesto riguardo, quanto permetteva la sua costituzione nervosa. Ma l'allarme che si era levato non poteva venirsi dato al punto da lasciarlo tranquillo finché rimaneva a Randalls. Si era rassicurato che non esisteva alcun pericolo presente per ritorno a casa, ma nessuna assicurazione poteva convincerlo che fosse prudente di restare. E mentre gli altri facevano varie premure e raccomandazioni, Mr. Knightley ed Emma sistemarono le cose in poche parole, così. «Vostro padre non sarà tranquillo, perché non andate?» «Io sono pronta, se lo sono gli altri.» «Devo suonare il campanello?» «Sì, fatelo pure.» E fu suonato il campanello e si chiesero le carrozze. Pochi minuti ancora ed Emma sperava di veder depositato alla propria casa un compagno seccante, perché rinsalisse e si raffreddasse, e di vedere l'altro riacquistare il buon umore e la felicità una volta finita questa penosa visita. Vennero le carrozze e Mr. Woodhouse, sempre la prima persona a cui pensare in tali occasioni, fu premurosamente accompagnato alla sua carrozza da Mr. Knightley e Mr. Weston. Ma tutto quel che essi poterono dire non riuscì a evitare il ritorno d'un po' d'allarme alla vista della neve che era effettivamente caduta e alla scoperta d'una notte molto più buia di quella che si aspettava. Aveva timore che sarebbe stata una brutta scarrozzata, temeva che non sarebbe piaciuta affatto alla povera Isabella, e poi ci sarebbe stata la povera Emma nella carrozza dietro. Non sapeva che cosa sarebbe stato meglio fare. Dovevano tenersi vicini il più possibile e parlò a James, che venne richiesto di andare piano piano e di aspettare l'altra carrozza. Isabella salì dopo il padre. John Knightley, dimenticandosi che non faceva parte della loro comitiva, salì assai naturalmente dietro a sua moglie, sicché Emma trovò, venendo scortata e seguita nella seconda carrozza da Mr. Elton, che lo sportello veniva chiuso dietro di loro legittimamente e che essi avrebbero fatto parte del tragitto da soli. Non ci sarebbe stato un momento di imbarazzo, anzi sarebbe stato un piacere prima dei sospetti della giornata presente. Lei avrebbe potuto parlargli di Eric e i tre quarti di miglio non sarebbero sembrati che uno, ma ora essa preferiva che ciò non fosse successo. Credeva che lui avesse bevuto troppo del buon vino di Mr. Weston e si sentiva sicura che gli avrebbe voluto dire delle sciocchezze. Per frenarlo per quanto era possibile coi suoi modi, essa stava preparandosi a parlare con calma e gravità squisite del tempo e della notte, ma aveva appena cominciato, avevano appena oltrepassato il cancello delle carrozze, accodandosi all'altra vettura, che essa si sentì troncare l'argomento, prender la mano, richiedere la sua attenzione. e trovò che Mr. Elton le faceva disperatamente la corte, approfittando della preziosa opportunità, dichiarava sentimenti che supponeva ben noti, sperava, temeva, adorava, era pronto a morire se lei gli diceva di no, ma si lusingava che il suo ardente affetto e il suo impareggiabile amore e la sua passione senza precedenti non avrebbero mancato di ottenere qualche risultato. Insomma, era risolutissimo a farsi seriamente accettare il più presto possibile. Era proprio così, senza scrupolo, senza scuse, senza mostrar molta esitazione, Mr. Elton, rinnamorato di Harriet, si professava suo innamorato. Essa cercò di fermarlo, ma invano. Egli voleva arrivare fino in fondo. Irata com'era, un momento di riflessione le fece decidere di frenarsi quando parlava. Sentiva che metà di questa sempiaggine doveva essere ubriachezza e perciò poteva sperare che fosse un fenomeno passeggero. Sicché, con un tono tra il serio e il faceto, che sperava fosse il più adatto al suo stato mezzo e mezzo, rispose: «Sono proprio stupita, Mr. Elton, questo a me. Voi non sapete quel che fate. Mi prendete per la mia amica. Qualunque comunicazione abbiate per Miss Smith, io sarò lieta di riferirla. Ma basta di ciò a me, vi prego». Miss Smith, comunicazione a Miss Smith. Che cosa vuol mai dire? Ripeteva le parole di lei con tal sicurezza d'accento, tale ostentata pretesa di stupore, che essa non poté fare a meno di rispondere rapidamente. Mr. Elton, questa è una condotta veramente straordinaria e io posso spiegarmela solo in un modo. Voi non siete voi stesso o non potreste parlare a me o di Harriet in tal modo. Padroneggiatevi sufficientemente da non dire altro e io cercherò di dimenticare. Ma Mr. Elton aveva bevuto solo abbastanza vino da elevare il suo spirito, non però da offuscare il suo intelletto. Sapeva benissimo quel che voleva dire. E dopo aver protestato calorosamente contro il sospetto di lei, come assai offensivo, e aver toccato di sfuggita circa il rispetto che egli nutriva per Miss Smith come per un'amica di lei, pur confessando la sua meraviglia che Miss Smith dovesse venire affatto ricordata, riprese il tema della sua propria passione e insisteva per una risposta favorevole. Meno pensava che fosse ebbro, più essa era colpita dalla sua incostante presunzione. E senza più tanto sforzarsi a essere cortese, rispose: «È impossibile per me avere ulteriori dubbi. Vi siete spiegato abbastanza. Mr. Elton, il mio stupore va al di là di quanto io possa esprimere. Dopo una condotta come quella che ho visto coi miei propri occhi per tutto il mese scorso verso Miss Smith, tali premure, quali mi è capitato di osservare quotidianamente, rivolgersi a me in questo modo, questa è un'incostanza di carattere proprio che non avrei mai supposta possibile. Credetemi pure, signore, io sono tutt'altro, ma proprio tutt'altro che lieta d'essere l'oggetto di tali proteste». «Buon Dio!» esclamò Mr. Elton. «Che cosa può voler dire questo, Miss Smith? Ma io non ho mai pensato a Miss Smith in tutto il corso della mia esistenza. Non le ho mai usato riguardi se non come vostra amica. Non mi è mai importato se fosse morta o viva, se non perché era vostra amica. Se lei si è immaginato qualcos'altro e i suoi propri desideri l'hanno ingannata, e me ne dispiace assai, me ne dispiace davvero. Ma che Miss Smith? Oh, Miss Woodhouse, chi può pensare a Miss Smith quando Miss Woodhouse è vicina? No, parola d'onore, non c'è alcuna incostanza di carattere. Io ho pensato soltanto a voi. Protesto di non aver prodigato la più piccola attenzione a qualunque altra. Qualunque cosa io ho detta o fatta da parecchie settimane a questa parte è stata col solo intento di sottolineare la mia adorazione per voi. Non potete davvero sul serio dubitarne. No, con accento che voleva essere insinuante. Sono sicura che mi avete visto e compreso. Sarebbe impossibile dire quel che sentì Emma a udire queste parole, quale di tutte le sue spiacevoli sensazioni predominasse. era troppo completamente sopraffatta per poter rispondere subito. I due attimi di silenzio costituirono abbondante incoraggiamento per lo stato d'animo ottimista di Mr. Elton, perché tentasse di riprenderle la mano mentre esclamava con gioia: «Affascinante, Miss Woodhouse! Permettetemi di interpretare questo commovente silenzio. Esso è la confessione che voi mi avete capito da un pezzo». «No, signore», esclamò Emma, «non confesso niente di simile. Ben lontana dall'avervi capito da un pezzo, io sono stata nel più completo errore riguardo alle vostre intenzioni fino a questo momento. Quanto a me, mi dispiace assai che abbiate dato libero corso a qualsiasi sentimento. Nulla potrebbe essere più lontano dai miei desideri. Il vostro attaccamento alla mia amica Harriet, il vostro star dietro a lei, che tale appariva, mi facevano molto piacere, e io ho desiderato vivamente per voi ogni successo. Ma se avessi supposto che essa non era ciò che vi attirava a Hartfield, certamente avrei pensato che voi giudicavate male nel rendere le vostre visite così frequenti. Devo dunque credere che voi non avevate mai cercato di raccomandarvi in modo particolare a Mrs. Smith? Che non avete mai pensato seriamente a lei?» «Mai, signora!» esclamò egli, offeso a sua volta. «Mai, ve l'assicuro, io pensare seriamente a Mrs. Smith. Mrs. Smith è una gran buona ragazza e sarei lieto di vederla felicemente accasata. Le desidero ogni bene. E certo ci sono uomini che potrebbero non trovar da obiettare a... ognuno al suo livello. Ma quanto a me, non credo di essere a così mal partito. Non ho da disperare così totalmente in un matrimonio con una mia pari da dovermi rivolgere a Miss Smith. No, signora, le mie visite a Hartfield sono state soltanto per voi, e l'incoraggiamento che ho ricevuto...» «Incoraggiamento? Io vi ho dato incoraggiamento? Signore, vi siete sbagliato del tutto nel supporle. Io vi ho veduto solo come un ammiratore della mia amica. Sotto nessun'altra luce voi avreste potuto essere per me qualcosa di più, una conoscenza ordinaria. Mi dispiace moltissimo, ma è bene che l'errore finisca come finisce. Se fosse continuata la stessa condotta vostra, Miss Smith avrebbe potuto essere indotta a fraintendere le vostre intenzioni, non accorgendosi, più di quel che mi accorga io, della gran disparità a cui siete così sensibile. Ma, stando così le cose, la delusione è unilaterale e confido che non sia duratura. Per il momento io non ho nessuna idea di sposarmi». Egli era troppo adirato per dire un'altra parola. La maniera di lei troppo decisa per invitare suppliche. E in questo stato di crescente risentimento e di profonda mortificazione reciproca, dovevano rimanere insieme ancora per qualche minuto, che i timori di Mr. Woodhouse li avevano ridotti a passo d'uomo. Se non ci fosse stata tanta collera, ci sarebbe stato un imbarazzo disperato, ma le loro emozioni rettilinee non lasciavano posto ai piccoli serpeggiamenti dell'imbarazzo. Senza accorgersi di quando la carrozza voltò per la via della canonica o di quando si fermò, essi si trovarono d'un tratto alla porta della casa di lui, ed egli era uscito prima che fosse scambiata un'altra sillaba. Emma allora sentì che era indispensabile augurargli la buonanotte. Il complimento fu appena ricambiato, con freddezza e superbia, e in uno stato di indescrivibile irritazione di spirito, essa fu poi trasportata a Hartfield. Là fu accolta con la massima letizia dal padre, che non aveva fatto che tremare per i pericoli di una scarrozzata solitaria dalla via della canonica, voltare una cantonata a cui non poteva pensare senza orrore, e affidata alle mani di un estraneo, non di James, e pareva che ci volesse solo il ritorno di Emma perché tutto andasse bene. Che Mr. John Knightley, vergognoso del suo malumore, era adesso tutta cortesia e premura, e così particolarmente ansioso per il benessere del padre di lei, da parere, se non addirittura pronto a fargli compagnia per una scodella di pappadavena, perfettamente convinto delle incomparabili qualità di quel piatto, e la giornata si concludeva in pace e benessere per tutta la piccola comitiva, eccetto che per Emma. Ma il suo spirito non aveva mai sentito tanto turbamento, e gli ci volle un bello sforzo per apparire serena e allegra, fin quando la consueta ora della separazione le consentì il sollievo di riflettere tranquillamente ai casi suoi. I capelli furono arricciati nei diavoletti, la cameriera fu mandata via ed Emma si sedette a riflettere e ad arrovellarsi. Era davvero una brutta faccenda. Un tal rovesciamento di ogni cosa da lei desiderata. Un tale sviluppo d'ogni cosa più sgradita. Un tal colpo per Harriet. Codesto era il peggio. Per ogni verso la circostanza recava pena e umiliazione. D'un genere o d'un altro. Ma in confronto al male che significava per Harriet, tutto il resto era leggero. E lei si sarebbe volentieri rassegnata a sentire d'aver preso un abbaglio ancor più grosso, d'aver fatto un errore ancor più madornale, a sentirsi ancor più screditata dal giudizio erroneo di quel che non fosse, se gli effetti delle sue balordaggini fossero potuti ricadere su di lei. Se io non avessi persuaso Harriet a trovar di suo gusto l'uomo, avrei potuto tollerare ogni cosa, raddoppiasse pure la sua presunzione nei miei riguardi. Ma la povera Harriet, come aveva potuto ingannarsi così? Lui protestava di non aver mai pensato a Harriet sul serio, mai. Cercò di guardare al recente passato come meglio poté, ma tutto era confusione. Lei si era messa in testa quell'idea, supponeva, e aveva fatto piegare ogni cosa ad essa. Tuttavia, le maniere di lui dovevano essere state poco chiare, oscillanti, dubitose, altrimenti lei non avrebbe potuto ingannarsi tanto. Il ritratto. Che ardore aveva mostrato a proposito del ritratto. E la sciarada. E 100 altre circostanze. Come erano parse a indicare chiaramente Harry? Certo, la sciarada col suo pronto ingegno, ma d'altronde i teneri occhi. Di fatto non conveniva né all'una né all'altra. Era un pasticcio senza gusto o verità. Chi avrebbe potuto raccapezzarsi in quella balordaggine? Certo, essa aveva sovente, specie negli ultimi tempi, notato che i suoi modi verso di lei erano inutilmente galanti, ma ciò era passato per la sua maniera, per un mero errore di giudizio, di comprensione, di gusto, come una prova fra tante che egli non aveva sempre vissuto tra la miglior società, che con tutta la gentilezza del suo modo di porgere, talora mancava la vera eleganza. Ma, fino al giorno presente, essa non aveva mai sospettato, neanche un attimo, che ciò significasse qualcosa di più di un riconoscente rispetto verso di lei, quale amica di Harriet. A Mr. John Knightley doveva la sua prima idea della vera intenzione di Mr. Elton, il primo avviso della sua possibilità. Non si poteva negare che quei fratelli possedessero penetrazione. Si ricordava ciò che gli aveva detto una volta Mr. Knightley di Mr. Elton, l'avvertimento che aveva dato, la convinzione da lui espressa che Mr. Elton non avrebbe mai fatto un matrimonio poco giudizioso, e arrossiva a pensare quanta maggior conoscenza del suo carattere si era lì rivelata, di quella a cui essa era giunta da sé. Ciò la mortificava terribilmente, ma Mr. Elton si dimostrava, per molti aspetti, proprio l'opposto di quello che essa l'aveva voluto e creduto: orgoglioso, pretenzioso, pieno di sé, molto compreso dei propri diritti e ben poco preoccupato dei sentimenti degli altri. Al contrario di ciò che accade di solito, il desiderio di Mr. Elton di corteggiarla l'aveva fatto scadere nella sua opinione. Le sue proteste e le sue proposte non gli giovavano. Dell'attaccamento di lui non gliene importava niente, anzi si sentiva insultata dalle sue speranze. Egli voleva sposarsi bene e, avendo l'arroganza di innalzare i suoi occhi fino a lei, faceva l'innamorato. Ma essa si sentiva perfettamente tranquilla che lui non soffriva di alcuna delusione meritevole di riguardo. Non c'era stato vero affetto né nelle sue parole né nei suoi modi. C'era stata, sì, gran profusione di sospiri e di belle parole, ma essa non poteva pensare a un genere d'espressioni o immaginare un tono di voce meno imparentati col vero amore. Non doveva darsi pena d'aver compassione per lui. Egli voleva soltanto migliorare il suo stato e arricchirsi. E se Miss Woodhouse di Arti, ereditiera di 30.000 sterline, non poteva ottenersi così facilmente come aveva immaginato, egli avrebbe presto provato mista l'altra dei tali con 20 o magari con 10. Ma che egli dovesse parlare di incoraggiamento, che dovesse considerare lei consapevole delle sue intenzioni, pronta ad accettare le sue attenzioni, in una parola sposarlo, che dovesse supporsi l'eguale di lei per stato sociale o per intelletto, guardare dall'alto in basso la sua amica, rendendosi conto così bene dei gradini sociali sotto di lui, ed essere così cieco a quelli sopra di lui, da immaginarsi di non mostrare presunzione facendo la corte a lei, ciò era quanto mai irritante. Forse non era giusto aspettarsi da lui che sentisse quant'era inferiore a lei nell'ingegno e in tutte le eleganze dello spirito. L'assenza stessa di questa eguaglianza poteva impedire che egli se ne accorgesse, ma egli doveva pur sapere che per patrimonio e per importanza sociale essa gli era di molto superiore. Doveva sapere che i Woodhouse avevano risieduto a Hartfield per parecchie generazioni, ramo cadetto di una famiglia antichissima, e che gli Elton non erano niente. La proprietà terriera di Hartfield, certo, era insignificante, non essendo che una specie di intaccatura nella tenuta dell'abbazia di Dunwell, a cui apparteneva tutto il resto di Highbury. Ma il loro patrimonio, per altri cespiti, era tale da non farli figurare secondi neppure all'abbazia di Dunwell per ogni altro rispetto di importanza sociale. E i Woodhouse, per lungo tempo, avevano avuto un alto posto nella considerazione di quell'ambiente in cui Mr. Elton era entrato da men di 2 anni per farsi strada il meglio che poteva, senza altra parentela che fra commercianti e senza null'altro che la sua posizione e la sua urbanità che potessero renderlo degno di nota. Ma egli si era immaginato che lei fosse innamorata di lui. Questa evidentemente doveva essere stata la conclusione a cui era giunto, e dopo essersi sfogata per un po' su questa apparente incoerenza di modi cortesi e di presunzione, Emma, per un senso d'ordinaria onestà, fu obbligata a fermarsi e ad ammettere che la sua propria condotta verso di lui era stata così compiacente e affabile, così piena di cortesia e di premura, che, supponendo che rimanesse inosservato il suo reale motivo, avrebbe potuto giustificare un uomo di penetrazione e di delicatezze ordinarie come Mr. Elton nell'immaginarsi d'essere decisamente un favorito. Se lei aveva così male interpretato i sentimenti di lui, aveva ben poco diritto di meravigliarsi che lui, con il proprio interesse ad accecarlo, si fosse sbagliato sui sentimenti di lei.